Tutto per cosa, Suore? Tutto. Tutto. Cosa che è? Sei venuta a questa manifestazione per questo? Eh sì. Per questo e per altre cose. Per questo anche per altre cose. Cioè quali? Cioè anche... No, state chiari qua, non si capisce perché fate sciopero. Perché siamo in sciopero stamattina? Sì. Voi stamattina siete venuti con petocchi, epatite e tubercolosi. Importantissimo perché è la prima volta che le scuole in lotta, cioè le scuole che sono state occupate e autogestite queste settimane, si sono trovate insieme per dimostrare, in questo caso contro il provveditorato, che è stato identificato dalla maggior parte delle scuole la nostra controparte immediata, in quanto è così il braccio cosa fa operativo. Che non funziona? Il fatto è che noi ci rivolgiamo al provveditorato sapendo comunque che così la controparte, diciamo, vera e propria è il Ministero degli Studi e della politica scolastica di cioè per la scuola, per i licei artistici in particolare. Ma cosa c'è che non funziona? Che cosa? Cos'è che non funziona? Beh, da noi non funziona tutto praticamente, perché non abbiamo né le aule né i banchi, nelle sedie. Secondo voi se vi dessero le aule e ripulissero la scuola dai pidocchi, il movimento continuerebbe o finirebbe qui? Ma continuerebbe, perché avremmo sicuramente gli strumenti per portare avanti qualcosa di nuovo e una didattica alternativa. Noi nella nostra scuola in AIEC e nel liceo artistico abbiamo fatto parecchi esperimenti di, diciamo così, didattica diversa, semi sperimentale, robe di questo genere. Però quasi tutti falliscono perché mancano gli strumenti. Quando tu non hai il banco dove sederti è inutile che pensare di far qualcosa, no? Ho bisogno di qualcuno che mi spieghi perché siete scesi in sciopero. Beh, dunque, cazzo, noi siamo scesi in sciopero in quanto, cioè, cazzo, si ha l'esigenza, no? Cioè, ad esempio, io sono del Torricelli, no? Cioè, la grande manifestazione è per la mancanza di professori in molte scuole, no? Così, cioè, noi questa esigenza non la abbiamo, però come istituti tecnici, no? Abbiamo l'esigenza, cazzo, quella che ho occupazioni. Infatti, il tragitto dalla manifestazione... No, dopo che uscite fuori dalla scuola. Una volta questa, chiaro. Cioè, ma infatti il tragitto della manifestazione, no, passerà per il collocamento dove ci sarà, cioè non so bene, spiccherà. Voi non c'avete il problema delle pucce, dei pidocchi, che non c'avete i banchi? No, queste cose no. Cioè, poi anche, cazzo, non so, per appunto perché noi non vogliamo essere tagliati fuori, no? Per collegamento con tutte le altre scuole di Milano, cioè, noi personalmente Torricelli siamo scesi in piazza. Tu hai un cartello che si dice Andemus in provveditoratorum, che è un genitivo, ad protestandi, volerum facere plus latinorum collettivo cicerone. Questo è quello che succede a scuola tua? Sì. Che scuola è? Settimo liceo scientifico. Vorresti fare più latino? È chiaro, è troppo poco, così. 4 ore, cioè vorremmo ampliare la nostra cultura. In un liceo scientifico? In un liceo scientifico. Senti un po', ma fino a un po' di tempo fa si combatteva per togliere il latino, adesso voi ne volete di più. Adesso abbiamo cambiato idea, vogliamo una riforma, cioè, per controllare la tecnologia che avanza. E si controlla con il latino? Con il latino, è chiaro. Così abbiamo l'appoggio del Papa e del clero. E quanti altri bambini, e sono tutti come te che stanno in fila per 3-7. Ah, c'è Moreno, Dai, becca Moreno. Settimo? Dai, io sono lì. Qua se vedete la polizia, vedete? Io devo cantare. Volete cantare? Dai, cosa facciamo? C'è mio papà nella polizia. È vero, voi ridete. Ma il triste è che è vero. Il tuo padre è nella polizia? No, scherzo. A 2 settimane fa era al liceo. Poi? Poi adesso no, adesso è allo Spezia. Verso il Bercè? No, vado a cercare il Bercè. E di lottare per una scuola rossa! siamo sempre interrogati, siamo sempre più incazzati, siamo sempre interrogati. Invece di questa interrogazione cosa vorreste? Dai, dai. Invece di queste, beh, è una scuola tutta nuova da tutti i punti di vista, cioè ad esempio noi nella nostra scuola abbiamo interrogazioni fatte in modo molto vecchio, assolutamente nozionistiche, dove non abbiamo possibilità di discussione preliminare con i professori di nessun tipo, cioè io non nel mio caso specifico, però nella mia scuola capita nel 99 casi su 100 c'è questa cosa, noi siamo del sesto, Viale Campania. Siete scesi in piazza per questo oggi in sciopero? Oggi siamo scesi in piazza contro la repressione nelle scuole che noi abbiamo subito molto da vicino, col preside che ci ha mandato la lettera a casa, ha convocato consigli di classe speciali per prendere provvedimenti contro quelli che simpatizzavano per sinistra e poi sulla didattica appunto perché vogliamo dei contenuti nuovi in questa scuola. Insomma. Sentite, questo sciopero è stato reso possibile anche da tutte queste occupazioni che ci sono state in queste ultime settimane. Pensate che adesso ci sarà un'organizzazione generale cittadina degli studenti o che il lavoro andrà avanti scuola per scuola? Ma non lo so, io ti posso dire che spero che ci sia qualcosa a livello cittadino, però ti porto la mia posizione, adesso non so dirti cosa succederà, ancora se siamo all'inizio, insomma, non lo so. Radio libere sono solo sovversione, l'unica via è la televisione. Organizzazione, forchetta, coltello, andiamoci a scalzone. Ha paura, ma tutti dicono qua i cortei fanno paura. Non è vero. Cosa ne pensi di questi studenti in sciopero? Non saprei perché io non... Beh, la scuola andava anche lei. Sì, ma fino alla quinta. Fino alla quinta sono andato, dopo ho smesso e sono andato a lavorare. Perché oggi molti di questi giovani qua non trovano lavoro quando escono da scuola. È vero. Cosa si potrebbe fare? Fate un cordone. È bel lavoro, è che ci manca in Italia, ma tanto. Voi anarchici vi mettete sempre in coda alle manifestazioni, come mai? Boh, non lo so, è un... Ci mettiamo così in coda, però non... Motivo non lo so. Sì, comunque... Ma comunque per distanziarci un po' dal corteo normale. Cioè per avere una certa distanza e gridare i nostri slogan. Che sono diversi dal resto del corteo. Ma voi sentite più studenti o più anarchici? Più anarchici che studenti. Cioè almeno io personalmente. Cosa vuol dire sentirsi anarchico? Cosa vuol dire? Non lo so. Cioè... modo di essere, cioè di essere, di avere delle idee in testa. Per me non era una. Cioè qual è una di queste? Come un'idea di questa? Vola, l'abolizione dello Stato, penso. Questa è un'anarchia? No, anche è un nostro programma. Cosa ne pensate di questi studenti? Avete paura dei cortei? È una riflessione lunga. Non posso. Ma quando vedete passare un corteo così, cosa vi viene in mente? Mi viene in mente che la società è disastrata e quindi bisogna dare delle risposte. Dall'altra parte ci sono andati a vedere che risposte dare. Quindi ci sono sentimenti contrapposti. Da una parte l'esigenza di rinnovare, di cambiare, di riformare, credo ormai sia abbastanza diffusa, insomma, c'è una consapevolezza generale in questo senso. Dall'altra si tratta di vedere però quali strumenti, quali vie intraprendere per portare avanti questo processo. Una manifestazione come questa può essere uno di questi strumenti? Sì, può essere, ma il rischio qualche volta è che manifestazioni come queste magari non abbiano obiettivi precisi, definiti e che quindi non riescano a raccogliere anche tutto il potenziale di rivolta, dico rivolta nel senso positivo della parola, che la società esprime a quello appunto delle nuove generazioni. Cosa ne pensi di questa manifestazione degli studenti? Ma io guardi, io sono stufo perché sono stato dentro in due guerre, sono stato via 3 anni, sono tarato e dovevano darmi una maggioranza di stipendio mensile per queste cose qui, non me lo danno nemmeno noi, che vogliono tirarmela via, cosa devo raccontarvi a voi altri. Voi altri fate la vostra contestazione e arrangiatevi, come abbiamo fatto noi, 2 anni d'inverno e che sono stato 2 mesi a letto dopo. Star Wars, i poliziotti? Sì. C'è di sopra voi stamattina? Dovevamo andare in provveditorato perché ci mancano, stanno mandando via un casino di professori, no? Di che scuola siete? Turismo, Baralli. Un casino di professori? Li sta mandando via perché la storia lì del punteggio, lo sai. Adesso siamo diretti in provveditorato, dovremmo andare lì e fare un po' di casino, adesso però non so. Senti, secondo te dopo tutte queste occupazioni che sono state questa settimana, come andrà a finire adesso, dopo questo sciopero? Io spero, non lo so però, spero di riuscire a ottenere qualche cosa. Penso, perché tra l'altro poco tempo fa abbiamo fatto una manifestazione perché ci mancavano le aule a scuola, non avevamo posto, no? Abbiamo fatto manifestazione, siamo andati in provincia. E a furia di dai dai siamo riusciti a tenerla. Ecco, ma una volta che avete ottenuto professori e aule, come si mette la situazione della scuola? Ah, non lo so. Secondo voi si ferma tutto o continua la discussione? Penso che continui, perché non è solo questo il problema, i problemi della nostra scuola ce ne sono tanti. Vabbè, ciao. Avanti nei prossimi giorni dopo questo corteo al liceo Carducci. Noi l'occupazione l'abbiamo fatta nella settimana, insomma, in cui hanno occupato le 40 scuole, eccetera. Abbiamo sviluppato i temi soprattutto sulla didattica e la repressione, come più o meno in tutte le scuole. Adesso stiamo facendo un lavoro di come si può dire, sperimentazione, cioè tentiamo di, per la prima volta, insomma, succede a scuola nostra, di prendere contatti con i genitori, con i professori, per un lavoro comune, no? Abbiamo addirittura con i genitori. Sì, abbiamo fatto 2 assemblee con i genitori in cui si è un po' rotto il ghiaccio, più che altro, non è che sia arrivata a qualcosa di concreto ancora, eccetera. Abbiamo in programma per dicembre una grossa assemblea sulla didattica, in concreto sulle proposte, eccetera, tra studenti, professori e genitori, no? Noi ci contiamo abbastanza. Ci sono ancora le solite resistenze da parte di tutta l'ala reazionaria dei professori, dei genitori, eccetera. Questa mobilitazione qua, niente, è andata abbastanza bene, tutto sommato, anche se l'assemblea non l'ha fatta passare, cioè l'assemblea del Carducci non ha aderito allo sciopero perché, come si dice, è passata, cioè, le forme concrete, quindi l'assemblea, lo sciopero, il corteo, i picchetti sono arrivati un po' così tra capo e collo per l'incapacità dei compagni di prepararla bene, insomma. I temi venivano discussi, sì, però non riusciamo mai a collegarli a un momento con le altre scuole. E quanti siete, oggi? Saremo, non so io, 30... Stai guardandosi in giro. 30-40, insomma. Va bene. Una delegazione, niente, più o meno i soldi. Senti un po', secondo te, dopo queste settimane di occupazioni, il movimento ritornerà ognuno nella propria scuola su temi specifici delle singole scuole o ci sarà un movimento cittadino, secondo te? Ma può continuare un momento. Io dico, se dovessi parlare solo della mia scuola, insomma, il pericolo è quello di dividere, insomma, l'attività nella scuola da un'attività a livello cittadino. Da noi si è sentita molto sta divisione. Si parlava delle... Cioè, la domanda è questa: se vi danno i professori che volete, fissi, i tavoli o gli strumenti scientifici che chiedete, tolgono i pidocchi e le pucci, cosa succede nelle scuole? Ma ti ripeto, nella mia scuola non ci sono questi problemi, non di professori, non di tavoli, eccetera. Noi il problema è di sperimentazione, in questo senso non finisce qua, ecco, in questo senso, perché noi abbiamo delle prospettive di rinnovamento della scuola, di cambiare la didattica, di far entrare la realtà nella scuola, che non finisce certo con una mobilitazione, eccetera. E appunto è il pericolo che nelle altre scuole gli tolgono le pulci, insomma, e cioè, può anche esistere. Si tratta proprio di mettere insieme tutte le esperienze che abbiamo e veramente darci degli obiettivi concreti a lunga scadenza, farci un programma. L'invito totale degli studenti a entrare nella piazza di Via Benito Mussolini. Qui la scuola è più gioiosa solo quando ci sei tu. Fateci un bis. Bravo, bravo, Tortoretto, ogni cosa sai far tu. Qui la scuola è più gioiosa solo quando ci sei tu. Abbiamo i vitelli, abbiamo gli altoparlanti, ma bravo Tortoretto, non abbiamo gli insegnanti. I poliziotti e i carabinieri armati di tutto punto con le autoblindo sono in mezzo, a un larghissimo cerchio di studenti, proprio in mezzo al cerchio. Li guardano quasi fossero un mostro da baraccone. Sono armati, sono vestiti con le nuove tute, sono identici ai poliziotti tedeschi, queste tute molto larghe, quattro hanno i giubbotti antiproiettile bianco e quattro neri. Vorrà dire qualcosa? Se ci sono io un'altra volta, sapete dove li trovate gli uomini? Su quel marciapiede, vedi? Non ci mette niente davanti, ma sul marciapiede sì. Ma no, perché deve avere questa strada, deve essere la mia. Siete giovani, ma guarda qua, è molto semplice. Guarda, vi dico questo: gli uomini li metti in questa strada, gli altri stanno là sopra, stanno a posto. Già non ci dovrebbe essere. Senti, il giorno in cui comanderà a me qua dei servizi, ma no, lo dico sin da questo. Ma no, cambi idea. No, ma lì non c'è niente di strano. Ma no, qua il problema, le dico qual è qui, insomma. È pacifica la manifestazione, è inutile che ci sia la polizia. Non ci interessa una sola cosa, una sola voglia. È qualche stronzo. Ma non ci pensiamo noi. E dietro c'è stato? Sì, ci stiamo. Non succede niente, è meglio così, cioè è meglio che c'è. Cioè, antipatico anche sta cosa qua. Io invece per noi e per voi, ma sì, ma era peggio, cioè, sia per noi che per voi, perché era molto più tesa la situazione. Così è già più disteso. Dite che inizia, va. Ha già cominciato. Sono arrabbiato con i carabinieri. Se non ci fosse, non sarebbe ancora sono meglio. Arrabbiato con i carabinieri, non con i poliziotti. E noi i carabinieri dobbiamo venire il freno, lo sapete questo, no? Perciò lasciate stare i carabinieri. Occhi, faccio il sindacato dei poliziotti. Chi il gimbone consuma la benzina, chi la paga lavora in officina. Il gimbone consuma la benzina, chi la paga lavora in officina. Sempre un po' intorno ai carabinieri, adesso alcuni studenti stanno tracciando una riga per terra, da qua gli studenti non dovrebbero uscire e da qua i poliziotti non dovrebbero varcare. Perché voi non prendete contatti prima con te? Non lo so. Se si prendevano contatti in mano e qua non ci stavano. Io sono arrivato quando ma gli avevo detto a quello là, gli ho detto venite prima. Perché lei capisce benissimo, non è che posso parlare con qualcuno pirla che arriva, che non dà nessun. Ma lei è rimasto qua? Io non mi posso ringraziare di che sono qua, io ho un piede scassato, la Madonna. No, una macchina che trova. Parte di questo cerchio tracciato davanti agli studenti stanno tirando dei fiori, dei mazzi di fiori ai poliziotti. Siamo un po' un quadro delle scuole stamattina prima dello sciopero. Allora, al settimo liceo scientifico è passata la mozione, c'è stato però il 70% di astensione. Al Giorgi non hanno fatto l'assemblea, al Molinari non è passata la mozione, all'ottavo scientifico è passata, al nono non si è fatta l'assemblea, non hanno potuto fare, anzi non l'hanno potuta fare, ci sono però 60 studenti su 700 in manifestazione, il preside è molto incazzato con gli studenti per questa storia dell'assemblea. Al Vittorio Veneto non è passata la mozione, nelle altre scuole di San Siro è passata, al Galileo c'era pochissima gente quindi non si è fatta l'assemblea, al decimo è passata la mozione, a Breraie che al Barabino non si è fatta assemblea, comunque sono arrivati in una delegazione molto numerosa, al quarto magistrale delegazione niente assemblea, al Gavani è passata la mozione di sciopero, al sesto niente assemblea anche loro in delegazione, al Vespucci, a Lizzos niente assemblea delegazione, al nono Itis e al Frisi professionale niente assemblea, al Parini, al Leonardo sono passate le mozioni di sciopero. Però a Leonardo, nonostante la maggioranza minima, ci sono parecchi studenti in manifestazione. Al Manzoni aziendale è passata, al Milazzo è passata, al conservatorio della gente che non si è ancora appurato se sono fascisti o chi, appoggiati da dei professori reazionari, hanno sfondato i picchetti, quindi non si è potuto votare e durante l'assemblea si è discusso di questo fatto gravissimo qui. Poi invece al tredicesimo c'è stata l'assemblea, circa 70-60 persone in manifestazione. Senti, queste scuole dove non è passata la mozione, cosa succede stamattina? Ma succede in molte scuole, ci sono collettivi sugli argomenti della manifestazione, sulla didattica, ad esempio al Manzoni Classico dove non è passata la mozione di sciopero, ci sono dei collettivi proposti dalla FIGC e da altre forze politiche da fare nelle classi e nelle sezioni e poi alla fine fare un incontro con il collegio dei docenti alla fine della mattinata. La scuola cambierà con l'unità di lotta, si vincerà! Nella metropolitana. E basta? Ti gridano Gaetano Vigliacco, portaci all'attacco. Non lo so. Certo. Non lo sai. Perché gli gridate Gaetano Vigliacco portaci all'attacco? Perché è un coniglio. È un coniglio. Ma tu sei il capo? Ma che capo è capo? Capo da cazzo. I leader esistono ancora? Beh, esistono in alcune occasioni, no? Quando gli altri... Cioè, quel discorso è un po' lungo perché... Secondo me non dovrebbero più esistere perché tutti dovrebbero decidere, no? Quello che bisogna fare. Però in alcune occasioni cioè, sono gli altri stessi che fanno riferimento a un compagno che ha più esperienza. E creano un leader, però a me non piace fare il leader, anzi. Non ne ha la capacità, questo bisogna dirlo. Ruggini? Chi? Cosa vuol dire? No, niente. No, è...